semplicemente perché mi è sembrato naturale. Ieri ho detto prendo il treno, vado a Macerata. Sinceramente non avevo neanche riflettuto sul fatto che non ci fosse andato nessuno. Me ne sono accorto uscendo, quando sono ripartito, che ho visto un tweet di Robecchi che lo sottolineava. Come ti sono sembrati i ragazzi? Sono preoccupati, sono scioccati? Cosa pensano? In realtà sono stato a lungo insieme agli amici che attendevano di poter incontrarli e ho visto Wilson Coffey, che è questo ragazzo di 20 anni del Ghana. Lui ovviamente mi è sembrato abbastanza, come anche i suoi amici, impaurito da quello che è successo, molto anche più impaurito, anche sbalordito, però insomma era molto contento della visita dei suoi amici, mi ha ringraziato per essere andato a portargli anche la nostra solidarietà. Mi sembrava non capacitarsi di questo odio, delle ragioni per cui era stato colpito in questa maniera. Fortunatamente, insomma, che poteva avere l'attentato anche conseguenze molto, molto più gravi. Ecco, al di là delle speculazioni politiche e del tono che ha preso il dibattito nella campagna elettorale, ha colpito molto anche la reazione sui social network di molti cittadini che sembrano sostanzialmente esprimere solidarietà all'aggressore. Che idea ti sei fatto del perché anche, appunto, magari vediamo tanto odio? Oramai è in corso da anni in Italia una campagna che è di incitamento all'odio razziale, una campagna che è agita in primo luogo da alcune forze politiche ed esponenti politici. Il giorno del ritrovamento del corpo martoriato e fatto a pezzi di Pronero, ho letto le dichiarazioni di Salvini e della Meloni e ho fatto un comunicato, ovviamente clandestino, perché in Italia pare che se non sei liberista o fascio leghista non c'è spazio nella comunicazione di massa, comunque in cui accusavo la Meloni e Salvini di incitamento all'odio razziale. Ma non ci sono solo loro, e tutta la comunicazione, sono quasi tutte le forze politiche e i programmi televisivi che avallano la narrazione per cui in Italia è in corso un'invasione, la principale emergenza è l'immigrazione, ci sono migliaia, milioni di delinquenti extracomunitari, c'è un problema di sicurezza, c'è tutto questo, sono ritornelli che lavorano nel cervello delle persone e in più si ragiona in maniera e vengono avallati messaggi sempre più primitivi, per cui persino pericolo pubblico del ministro degli interni Minniti, e quando dichiara cose del tipo non ci si fa giustizia da soli, inconsapevolmente, perché anche lui sta dentro questa deriva neorazzista istituzionale, avalla l'idea che andare a sparare a qualcuno che viene dall'Africa solo per il colore della pelle possa essere anche lontanamente la risposta a un crimine commesso da una persona o da due, non da milioni di persone. Cioè, siamo davvero in un meccanismo da Germania anni 30 in questo paese e bisogna avere il coraggio di schierarsi senza se, senza ma. Io francamente sono esterrefatto del fatto che il sindaco di Macerata non sia andato in ospedale, che non ci sia andato Minniti, che è andato pure in visita nella città, ha fatto un vertice. Potere al popolo, come dire, anche nella sua impostazione, nella sua nascita, dice di volersi occupare della sofferenza sociale. Bisogna far capire che i cittadini, anche che stanno male, sbagliano bersaglio nell'essere razzisti. Sono grandi armi di distrazione di massa. Qui da un lato c'è una classe dirigente neoliberista che ha dato uno spazio enorme a Salvini perché preferiscono avere un'opposizione orribile per costringere l'elettorato democratico, progressista, ma anche quello moderato a continuare a votarli, e dall'altro perché questo gioco cinico è evidentissimo. Se avessero dato negli ultimi 2 o 3 anni lo spazio che hanno dato a Salvini e ad altri come lui, ora danno a Casapound, alla sinistra radicale ci sarebbe Syriza in Italia o Podemos. Ma non c'è solo questo, c'è anche un altro elemento: che questo meccanismo conviene non solo gli immigrati ad aver votato la legge Fornero, non sono gli immigrati a non costruire le case popolari, non sono gli immigrati a togliere le tasse ai ricchi e a far pagare più tariffe ai poveri, non sono gli immigrati a tagliare le spese per la sanità o i fondi per le politiche sociali, non sono gli immigrati a derubarci con le tangenti sulle grandi opere e sugli appalti. Non sono gli immigrati a produrre il lavoro precario con le riforme come il Jobs Act e l'abolizione dell'articolo 18. E questo è fondamentale ripeterlo, non stancarsi mai di ripeterlo. Non sono tra l'altro gli immigrati che fanno le guerre e bombardano i paesi dell'Africa e creano situazioni come quella che c'è oggi in Libia e c'è in tanti altri paesi. Dobbiamo far ragionare il nostro popolo sul fatto che vengono indicati dei nemici che non hanno, non sono gli immigrati la causa dei nostri problemi, anzi sono, come gran parte, come la maggioranza degli italiani, vittime di un sistema economico e di scelte politiche sbagliate.